Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Una nuova giornata ci attende, allora dai, forza, ripartiamo. E anche voi, come me, immagino, ogni giorno vi confrontate con quella sensazione strana, con un mix di entusiasmo, timore, ottimismo, incertezza, ma questo fa un po' parte del gioco. Gli inizi sono sempre difficili, ci vuole un po' di pazienza. Possiamo farcela e intanto ci facciamo dare una mano dal dottor Gabriele Piuri, che è esperto di nutrizione a Milano. Dottor Piuri, buongiorno. Buongiorno. Sono momenti delicati e complicati. Parlando con i suoi pazienti, quali sono le condizioni che più frequentemente le persone lamentano in questa fase di riapertura, in cui ci sono luci e ombre? È vero, fortunatamente le persone stanno reagendo bene, con tanta voglia di ripartire e allo stesso tempo un senso di responsabilità in più, ma sicuramente qualunque tipo di cambiamento, di periodo di forte cambiamento come quello che stiamo vivendo oggi, in questi giorni, con la riapertura, con la fase 2, in realtà si porta dietro tutta una serie di fastidi, da una maggior percezione di ansia e di preoccupazione, fastidi come potrebbero essere la parte legata all'insonnia, oppure situazioni più banali come magari una minore regolarità intestinale o banalmente un po' di stanchezza, un po' di astenia in più, come se non ci fossimo più, certo, abituati a correre tutta la giornata. È proprio così, dottor Piuri. Noi, e lo ricordo agli amici che ci stanno ascoltando, da settimane ci stiamo allenando con il team di psicologi di Engage Minds Hub. È un centro di ricerca diretto dalla professoressa Gwendalina Graffigna dell'Università Cattolica. Ogni settimana ci alleniamo per affrontare psicologicamente questa nuova quotidianità. Ogni settimana ci sono degli esercizi che potete trovare sulla pagina di Obiettivo Salute, ci sono anche dei test per valutare quanto e come questi esercizi li state facendo bene e stanno dando dei risultati, ma anche dal punto di vista nutrizionale, dottor Piuri, noi possiamo fare qualche cosa. Un aiuto, ad esempio, può arrivare da un minerale molto interessante di cui abbiamo parlato, ricordo, in una intervista video insieme a lei, ma che oggi vorrei proprio riproporre perché probabilmente possiamo dire è un minerale ideale per la fase 2. Sì, è proprio un minerale che ci aiuta ad adattarci meglio ai cambiamenti. La fase 2 è sicuramente un cambiamento. Stiamo parlando del magnesio. Probabilmente un aiuto sul piano nutrizionale può proprio arrivare dal fatto di aumentare il consumo di alimenti più ricchi di questo minerale, che sono ad esempio il cacao, a cui però bisogna fare attenzione, nel senso che il cacao è molto ricco di magnesio, il cioccolato non lo è altrettanto. Potrebbero essere tranquillamente i semi oleosi, come ad esempio i pinoli, le mandorle, gli anacardi, le nocciole, i pistacchi, le noci, vanno tutti bene in generale i semi oleosi. Potrebbe essere sicuramente il pesce, la frutta essiccata, come le albicocche essiccate, come i fichi, e sicuramente la parte legata ai latticini. Il magnesio è sicuramente presente anche nei legumi e nei cereali integrali, quindi nella pasta integrale, nel pane integrale. Bisogna però fare attenzione a scegliere i cereali integrali e non quelli raffinati, perché in realtà il processo di raffinatura fa perdere più dell'80% della concentrazione di questo minerale. Quindi bene, scegliamo quelli integrali. Sì. Ma dottor Piuri, ci spiega perché? Adesso abbiamo capito dove lo andiamo a trovare il magnesio, quali cibi ne sono ricchi, ma perché è così importante il magnesio e in questa stagione in modo particolare, nella fase della ripresa? A livello delle cellule il magnesio viene utilizzato in più di 300 reazioni, quindi è uno di quei minerali che serve sempre. Ma l'aspetto particolare di questo minerale è che in realtà serve per andare a utilizzare l'energia della cellula. Senza magnesio non possiamo andare a utilizzare l'ATP, che è come se fosse la moneta di scambio energetico nella cellula, e quindi senza magnesio non possiamo attivare tutte le nostre capacità cellulari di utilizzare l'energia che ci viene dall'esterno. Il fatto di prendere, di aggiungere alimenti che ne sono più ricchi, ci mette nella situazione migliore per sentirci meno stanchi, meno affaticati. E spessissimo la percezione di tensione, di preoccupazione, di ansia, in realtà deriva più dalla percezione di stanchezza, di fatica, che non in realtà da situazioni reali, non so come dire. E il fatto di sentirci più forti e con più energia spesso è una delle strategie più utili per riuscire ad affrontarle e vincerle positivamente. La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare, se il giorno è lungo da passare. Dottor Piuri, e se invece parliamo di insonnia, molte persone lamentano una cattiva qualità del sonno, tanto che ci si alza spesso più stanchi di quando si è andati a letto a dormire. Anche in questo caso in realtà il magnesio può essere utile, e il fatto di aumentare la scelta di cibi che ne sono più ricchi può già far tanto, anche se a volte in situazioni di questo tipo è molto più utile andare a utilizzare un'integrazione mirata di magnesio, andando a scegliere, a chiedere al farmacista dei sali organici di magnesio che vengono assorbiti molto più facilmente e che in questo modo riescono a svolgere un effetto terapeutico dal di dentro, okay, senza effetti collaterali, e riescono ad avere proprio un'azione anche di modulazione della parte legata al sonno, della parte legata alla tensione, e questo può esserci effettivamente utile. È un po' il paradosso del magnesio, nel senso che se lo utilizziamo durante la giornata, soprattutto nella prima parte della giornata, ci dà più energia, più forza. Se lo utilizziamo prima di andare a letto, in realtà ci permette di rilassarci di più, di contrarre i muscoli, di stare più tranquilli. Senta, dottor Piuri, ma spesso il magnesio viene consigliato e suggerito alle persone che devono in qualche modo recuperare un buon ritmo intestinale. Sì, è vero anche quello, però bisogna scegliere una forma un po' diversa di magnesio, nel senso che bisogna prendere e preferire un tipo di magnesio inorganico, salino. Da quel punto di vista è facile trovare nelle farmacie, ormai anche nei supermercati, delle acque termali molto molto ricche di magnesio. Okay. Questo tipo di magnesio viene scarsamente assorbito, rimane a livello intestinale e favorisce proprio la regolarità intestinale. Da quel punto di vista, il fatto di bere uno o due bicchieri la mattina di quest'acqua leggermente intiepidita è probabilmente una delle strategie più utili per andare a utilizzare il magnesio per regolare anche la parte intestinale, la funzione intestinale. Viene suggerito anche alle persone che soffrono di mal di testa e alle donne per prevenire i dolori della sindrome premestruale. Non ne fa un po' troppe questo magnesio? C'è quasi da non credere. È proprio perché entra in realtà in tantissime reazioni cellulari diverse, quindi è veramente uno di quei minerali che, a fronte praticamente di nessun effetto collaterale, soprattutto se viene utilizzata la formula giusta e il dosaggio giusto, in realtà ci permette di funzionare molto molto bene. Anche rispetto al fatto che spessissimo anche noi italiani tendiamo a non consumare così tanto magnesio, quindi spesso c'è comunque una situazione di scarsa assunzione di questo minerale, e in realtà il fatto di aggiungerlo, di supportarlo, effettivamente spesso permette di ottenere grandi grandi risultati, sia in termini di mal di testa, in termini anche di prevenzione del mal di testa, è meno efficace nella fase acuta, ma come prevenzione può essere molto molto utile, e lo stesso anche per trattare la parte legata ai dolori mestruali, e quello lo svolge perché tende ad avere un'azione mio rilassante, cioè riduce la contrazione muscolare, anche dei muscoli lisci, quindi ad esempio dei muscoli dell'utero, in realtà aiuta a rilassare un pochino questi spasmi tipici della fase premestruale e della fase mestruale. Il magnesio sembra molto utile anche per chi riprende a fare sport. Riprendendo a fare un po' di movimenti in più, capita a molte persone di sentirsi i muscoli un po' affaticati. Cosa ci dice? La prima cosa importante in questa fase di ripresa dell'attività fisica è di fare tutto quanto un po' gradualmente. Non ha senso correre la maratona per tutto quello che non abbiamo fatto fino ad oggi, non so come dire. Sicuramente però il magnesio può essere d'aiuto anche per migliorare il recupero muscolare dopo l'attività fisica, e anche in questo caso dobbiamo preferire un magnesio organico che venga assorbito in modo che arrivi direttamente ai muscoli, e anche in questo caso spesso è molto più utile utilizzare l'integrazione. Banalmente, dopo l'attività fisica, dopo l'allenamento, il fatto di integrare un po' di magnesio subito dopo, proprio con i minuti subito successivi, anche prima di farti la doccia, per intenderci, aiuta a rilassare i muscoli e quindi di conseguenza migliorare di molto la parte legata al recupero. Quindi, dottor Piuri, anche il momento della giornata in cui si assume il magnesio è importante, come suggerisce la cronobiologia. Sì, esatto. Come dicevamo prima, nella prima parte della giornata ci aiuta ad avere più energia, a essere, come dire, più forti e a percepire di meno l'ansia perché abbiamo più energia e più forza. Mentre se andiamo a utilizzarlo subito dopo l'allenamento, ci favorisce di molto la parte legata al recupero muscolare. Se lo prendiamo la sera, invece favorisce l'addormentamento, anche perché aiuta a rilassarci di più. E di questo stiamo parlando, del magnesio organico, quello che viene assorbito. Mentre il momento migliore per utilizzare il magnesio inorganico, quello per favorire la regolarità intestinale, è la mattina prima colazione, e il fatto di bere uno o due bicchieroni di acqua molto molto ricca di magnesio, che si trova tranquillamente in farmacia o al supermercato. Cosa leggo sull'etichetta, dottor Piuri? È proprio un'acqua termale specifica con un'altissima concentrazione di magnesio, e spesso c'è proprio l'indicazione, ma se chiedete al farmacista saprà suggerirvi tranquillamente, proprio per favorire la regolarità intestinale. È proprio un'indicazione specifica dal Ministero della Salute, per intenderci. E quella invece va utilizzata la mattina appena svegli, magari un po' intiepidita. Perché anche la temperatura dell'acqua sembra aiuti il nostro intestino a metterci la testa, come si dice, sì, a lavorare per bene. L'acqua, sia il fatto di riempire lo stomaco appena svegli, non so come dire, nel senso che il fatto di bere comunque un po' di acqua appena svegli è come se dicessimo alla nostra pancia di cominciare a muoversi e quindi ecco, poi di favorire la funzione intestinale. Dottor Piuri, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, auguro una buona giornata. Naturalmente anche a Peter Bescapè, che è in regia alla parte tecnica, a Miriam Lucchetti, che è in assistenza, e a Laura Vanossi, come sempre, preziosissima, in redazione. Noi ci sentiamo a mezzogiorno e 5 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buonissima giornata da Nicoletta.